Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Il lavoro occasionale di tipo accessorio è un particolare contratto di lavoro introdotto, molti di voi lo ricorderanno, dalla riforma di Marco Biagi nel 2003, quindi 10 anni fa, con l'obiettivo di regolamentare i lavoretti più occasionali e saltuari. Lo strumento che permette questa procedura è il cosiddetto voucher, una sorta di assegno con il quale vengono pagate queste prestazioni, quindi questo contratto viene remunerato con il voucher. Il datore di lavoro può essere un'azienda, un privato, un ente senza fine di lucro, in caso di emergenza anche un ente pubblico. La riforma Fornero, la riforma del mercato del lavoro del giugno dello scorso anno, ha apportato alcune modifiche alle leggi che regolano l'utilizzo di questi buoni e il dato sul loro utilizzo degli ultimi mesi è decisamente significativo. Da fine luglio a metà gennaio ne sono stati venduti, erogati oltre 12 milioni e nell'ultimo anno l'aumento dei voucher in circolazione è, pensate, dell'87%. In questo martedì del lavoro, Salva Danaio oggi torna allora a fare il punto sul funzionamento di questo strumento e sulle novità apportate dalla riforma, rispondendo come sempre alle vostre domande all'800 24 00 24, al 349 238 6666 o anche all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Vi è capitato di lavorare con questo tipo di contratto o di offrire lavoro con questa modalità? Avete dei dubbi? Avete avuto dei dubbi, problemi, criticità? Raccontatecelo e noi naturalmente commenteremo le vostre esperienze e le questioni che ci vorrete porre insieme ai nostri ospiti di questa mattina. Ritorna con noi per questo nuovo martedì del lavoro Alessandro Rottaporta, consulente del lavoro, esperto di queste tematiche per il Sole 24 Ore. Rottaporta, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità. E naturalmente aspettiamo anche una collega del Sole 24 Ore, che è tra le esperte appunto di mercato del lavoro, Francesca Barbieri, che salutiamo. Francesca, buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. L'abbiamo già disturbata anche peraltro nei giorni passati per la questione legata all'iscrizione online dei propri figli a scuola, ma oggi ritorniamo invece con lei ad affrontare un tema diverso che è già stato affrontato, tra l'altro, anche lunedì scorso sulle Sole 24 Ore, dove si fa proprio un punto su quella che è la diffusione dei voucher in questo momento nell'ambito del sistema delle imprese. Non si ferma la corsa dei voucher, da luglio a gennaio, appunto, ricorda questo pezzo del Sole, venduti oltre 12 milioni di tagliandi. Prima di naturalmente parlare di tutto questo, però, vi devo raccontare anche quello che succede oggi in borsa. C'è stata una partenza molto prudente per i listini del vecchio continente, poco mossi, poi hanno deciso con maggior decisione di imboccare la direzione negativa. Adesso abbiamo Parigi che perde lo 0,39%, Francoforte meno 0,18%, Londra meno 0,05%, Milano un po' più pesante, perde lo 0,76%. Prosegue il recupero di Monte dei Paschi, a Milano però oggi un po' meno così brillante degli ultimi giorni, anzi molto meno brillante anche dell'avvio, perché le azioni di Rocca San Imbeni ad inizio seduta guadagnavano più di 3 punti, adesso guadagnano appena lo 0,8%. Il titolo rimane sopra i 26 centesimi di euro. Da qui a qualche giorno sicuramente controlleremo in maniera ossessiva l'andamento del prezzo, perché c'è un'indicazione molto importante che è stata fatta dalla Fondazione Monte dei Paschi, azionista di riferimento di Rocca San Imbeni, che ha detto: siamo pronti a cedere per fare cassa il 10% del nostro controllo, purché però il titolo arrivi a 30 centesimi e insomma adesso vedremo come e in che tempi si muoverà e se si muoverà verso questo livello. I migliori titoli sono però Mediaset più 2,7%, Azimut più 1,71%, Ansaldo più 1,45%, mentre oggi abbiamo notizie su Saipem, il titolo perde il 4%. È stato collocato il 2,3% del capitale da parte di Merrill Lynch per conto di un investitore istituzionale e il titolo appunto cede in questa misura a Piazza Affari. C'è anche un giudizio negativo di JP Morgan sul titolo, che penalizza ulteriormente il titolo. Euro su dollaro 1,3420, buono direi l'esito dell'asta del tesoro italiano prevista per questa mattina. Dovevano essere collocati 8 miliardi e mezzo di bot a 6 mesi, tutti totalmente facilmente collocati, una domanda anche molto alta, quasi 14 miliardi di titoli richiesti. Il rendimento chiesto su questo titolo è stato dello 0,73% rispetto allo 0,94% dell'asta del 27 dicembre scorso. Il rendimento si è portato ai livelli più bassi dal marzo del 2010. Molti appuntamenti oggi dagli Stati Uniti, in particolar modo l'avvio della riunione del Federal Open Market Committee, il comitato di politica monetaria della Banca Centrale Americana. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, riforma del mercato del lavoro, come funziona il lavoro occasionale di tipo accessorio e soprattutto come viene remunerato. La proposta di un lavoretto saltuario, una tantum, di una collaborazione occasionale, non significa e non deve significare la proposta di un lavoro in nero. Dalla babysitter alle ripetizioni alla vendemmia. Tutte queste mansioni possono e devono essere affidate nel rispetto della legalità ed esistono strumenti appositamente pensati per regolarle. È il caso dei voucher lavoro, buoni che vengono emessi nelle sedi INPS, ma anche nelle tabaccherie e negli uffici postali, cartacei o telematici, in tagli da 10, 20 o 50 euro. Questi ticket per il lavoro accessorio contengono una quota di retribuzione, ma anche una fetta di contributi per INPS e INAIL. La riforma Fornero ne ha maggiormente liberalizzato l'utilizzo, ma ha anche inserito nuovi paletti. Ha previsto, ad esempio, che i voucher siano datati e numerati e che abbiano un valore orario fissato a 10 euro. Ha inoltre introdotto una data di scadenza per i buoni, che non saranno più validi a 30 giorni dall'acquisto. La risposta sembra piuttosto positiva. Negli ultimi 6 mesi ne sono stati venduti oltre 12 milioni e la crescita nell'ultimo anno è dell'87%. Un terzo di questi lavoratori ha meno di 25 anni e tra gli ambiti di utilizzo spiccano le manifestazioni sportive, che collezionano il 12% dei buoni, e le imprese agricole, dalle quali viene staccato un ticket ogni 5. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, avete sentito il bilancio sull'utilizzo dei voucher da parte del mondo del lavoro. Francesca Barbieri, tutto merito questo più 30% delle recenti vendemmie nel nostro paese, ma non solo. Sì, beh, sicuramente la vendemmia incide molto sulla vendita dei voucher, perché comunque durante il periodo della vendemmia ne vengono utilizzati parecchi e sono proprio nati per la vendemmia i voucher. Nel 2008 in via sperimentale in alcune regioni sono stati utilizzati per la vendemmia ed erano ammessi solo per la vendemmia. Poi progressivamente l'utilizzo dei voucher è aumentato e c'è stato un trend di crescita continua che prosegue anche con le novità introdotte dalla riforma Fornero. Per questo sul Sole di ieri abbiamo proprio cercato di monitorare i mesi dall'entrata in vigore della riforma, quindi da metà luglio dell'anno scorso fino ad oggi, e la crescita continua ad esserci. Sì, io prima citando il tuo pezzo ho detto di lunedì 28 gennaio come se fosse stato di un mese fa, in realtà appunto era pezzo pubblicato proprio nelle pagine di ieri, nel lunedì delle Sole 24 ore, quindi avete sentito appunto quali numeri. C'è anche da dire che qualcuno ha un po' il sospetto, che non è naturalmente un sospetto in malafede, solamente forse una constatazione di un dato di fatto, che magari qualche azienda abbia deciso al posto di altre forme appunto di contrattualizzazione di utilizzare di più i voucher. Alessandro Rotaporta, può esserci anche questa interpretazione dietro a questi numeri così eclatanti che abbiamo dato questa mattina? Ma sicuramente può essere un indice, perché se pensiamo che la riforma su alcune forme contrattuali, ad esempio possiamo citare il lavoro a chiamata, il lavoro intermittente, è andata ad introdurre delle regole che rendono più stringente l'utilizzo, si pensa appunto per questa tipologia di contratti alla comunicazione preventiva che il datore di lavoro è tenuto a fare per segnalare in quali giorni o in quali cicli lavorativi sarà impiegato successivamente il lavoratore. Bene, queste formule magari hanno causato uno spostamento da appunto lavoro subordinato all'utilizzo dei voucher, anche perché, come è stato detto, anche in precedenza il campo di applicazione con le regole della riforma del lavoro si è allargato. Si è allargato e poi soprattutto non c'è più il confine che prima era abbastanza sottile sull'occasionalità della prestazione, perché ormai il limite è tracciato dalle soglie reddituali, dalle soglie di compensi che sono state indicate prima. Ecco, comunque dati ufficiali che dimostrino questo travaso non ce ne sono. Di fatto, se qualche azienda ha deciso di passare ad un contratto ad un altro, l'importante è che comunque tutti i contratti vengano stipulati in maniera totalmente trasparente per il lavoratore, soprattutto tutelante. Invece, Francesca Barbieri, per quello che riguarda, come dire, le aree territoriali e la distribuzione sul territorio dell'applicazione di un contratto di questo tipo, come siamo messi? Ho letto con interesse che si sta intanto assottigliando il divario tra nord e sud. Sì, si sta assottigliando piano piano, diciamo, perché comunque oltre il 70% dei voucher continua ad essere venduto nelle regioni del nord, con il Veneto e la Lombardia in crescita. Mentre al sud c'è da rilevare che negli ultimi mesi c'è stata una crescita consistente. In alcune regioni dove il voucher era praticamente sconosciuto, ad esempio la Calabria, la Sardegna, ma anche la Puglia, comunque negli ultimi mesi c'è stato un incremento nell'utilizzo, quindi i numeri sono ancora piccoli, però il trend è di crescita, quindi anche in queste zone dove comunque il voucher è uno strumento che può essere utilizzato soprattutto per i lavori agricoli, comincia ad essere utilizzato. Ecco, quali limiti settoriali c'erano prima? Cioè, nel senso che c'erano dei comparti industriali che erano totalmente esclusi dalla possibilità di applicare appunto una remunerazione con lo strumento del voucher, Francesca? Allora, il voucher è nato per i lavori agricoli, poi è stato progressivamente allargato ad altre tipologie di attività, come ad esempio le manifestazioni sportive, ad esempio i lavori domestici e altre anche presso, diciamo, attività svolte presso gli enti pubblici. Però era ammesso anche per alcune categorie di lavoratori, gli studenti nei periodi di vacanza, solo nei periodi di vacanza, e mi sembra le casalinghe e sì. Poche altre categorie, insomma. Sì, infatti, comunque Alessandro sarà sicuramente più sì, sì, no, ma era l'importante questo. Per capire poi come c'è stata l'applicazione graduale. Comunque è stato esteso progressivamente, questo spiega anche la crescita nell'utilizzo dei voucher. Con la riforma Fornero non c'è più questa, come dire, non ci sono più questi paletti, ma c'è solo un limite, che è quello economico. Certo, stresso ancora un pochino Francesca, perché poi ci deve lasciare prima della fine della trasmissione, per cui le faccio un'altra domanda, poi vediamo se può rimanere ancora con noi. So che tu hai sentito molto spesso, anche per capire un po' che tipo di impressione c'è sull'applicazione del contratto di lavoro occasionale tipo accessorio, l'utilizzo dei voucher, senti il mondo sindacale, senti anche le agenzie interinali, appunto, che chiaramente veicolano anche le professionalità e magari cercano di capire se si possono utilizzare appunto delle prestazioni professionali pagandole con i voucher. Qual è la sensazione che emerge prevalentemente, Francesca? È uno strumento che piace, che viene apprezzato? Allora, dal mondo sindacale sicuramente adesso il giudizio è positivo, con la novità che prevede che il voucher abbia un valore orario di 10 euro. Prima dai sindacati, come dire, la lamentela maggiore era proprio che per il voucher non c'era, come dire, un legame con l'ora di lavoro, per cui un voucher da 10 euro in teoria poteva essere la remunerazione di più ore, invece adesso non è più così, cioè 10 euro sono un'ora di lavoro. Dal punto di vista dei datori di lavoro, ecco, ultimamente ho sentito anche la Coldiretti, ho sentito Romano Magrini, che è responsabile delle politiche del lavoro di Coldiretti, invece contesta un po' questo aver, come dire, conferito tout court valore orario al voucher, perché crea, come dire, una sorta di impraticabilità economica dello strumento, tenuto conto che per le raccolte nei campi gli operai, che quindi hanno un salario, hanno un altro tipo di, come dire, di contratto, intascano un salario orario che è inferiore a 10 euro. E quindi si verrebbe a creare, secondo Coldiretti, un po' un problema anche da questo punto. Capisco. Ottimo. Allora, abbiamo già posto a tappeto molte questioni da continuare ad affrontare, però c'è un limite per l'utilizzo dei ticket, appunto, c'è un tetto fissato dalla riforma Fornero al periodo utile per l'impiego, ci sono 30 giorni per spenderli, per riscuoterli, e quindi dovremo capire appunto che tipo di problematiche crea questo limite. Fra un po' ce ne occuperemo con Alessandro Rotaporta, però forse abbiamo già il tempo per fare anche anche la prima domanda da parte di un ascoltatore che è Vincenzo da Perugia, quindi la scriviamo, la mettiamo da parte. Vincenzo, poi le rispondiamo alla ripresa del programma. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Ecco, la mia domanda era la seguente: se comunque è necessario formalizzare un tipo di contratto, in che forma, e quindi di conseguenza se è necessaria comunque una comunicazione al centro per l'impiego, e dopo in caso di controlli che possono essere posti in essere dagli enti preposti, che tipo di conseguenza di documentazione, di cosa fornire, ecco, all'ente, certo, eventuale. Cosa, ecco, esibire ad un eventuale controllo da parte di un ispettore o chi per lui. Vincenzo, grazie, le chiedo solamente un paio di minuti di pazienza, abbiamo il primo blocco pubblicitario, ci possiamo già andare, Gianmarco? Aspetta, sì, facciamo, ce lo togliamo subito questo dentino. 800 24 00 24, il numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi sui voucher lavoro. Ci sentiamo tra poco. Come suo ragioniere e amministratore, e suggerisco di acquistare una macchina. Una spremitrice diesel che fa il lavoro di 3 uomini e in metà tempo. E le famiglie dei 20 ragazzi che non assumiamo? Il progresso alle volte è crudele. Allora la vuole comprare? No, ho deciso di comprare un'altra macchina. Che macchina? Una calcolatrice elettronica. Fa il lavoro di 3 ragionieri in metà tempo. Fiori, fantasia, la la la la la la, forza che vabbè, non possiamo far sentire tutta la canzone, eccola che lo dice, è il bisbetico domato che fa la vendemmia e pigia pigia pigia. Veramente stamattina un esercizio di fantasia di Marco Lombardo che non ha limiti, ma noi ne siamo contenti, perché comunque qualche volta anche per raccontare di temi un po' impegnativi bisogna alleggerire il clima e raccontarli in maniera semplice. Di che cosa parliamo oggi? Nella nostra nuova puntata dedicata alla riforma del mercato del lavoro parliamo della riforma Fornero, che ha rivisitato il ricorso al lavoro accessorio, quello retribuito tramite i voucher o buoni lavoro previsto appunto dalla legge Biagi del 2003. Ha riformato anche il lavoro a chiamata. Noi oggi per oggi ci soffermiamo in particolar modo sul lavoro accessorio, che è un tipo di rapporto flessibile destinato ad attività lavorative di natura meramente occasionale. Ma come funzionano questi voucher e soprattutto che tipo di rapporto con grande chiarezza si deve stabilire anche con il datore di lavoro? Alessandro Rotaporta, abbiamo sentito la domanda di Vincenzo da Perugia, che intanto chiedeva: si deve formalizzare in maniera molto dettagliata il rapporto di lavoro, non è con datore di lavoro dice io ho 10 voucher, ti pago con questi, vieni da me, lavora e poi ce la sbrighiamo alla fine della tua prestazione. Non è esattamente così. Allora, chiariamo che il rapporto di lavoro occasionale, quindi tramite retribuito tramite i voucher, non è un rapporto di lavoro subordinato, quindi non segue tutte quelle regole che vanno osservate in questi casi. Per cui l'ascoltatore chiedeva se c'è un contratto. No, non c'è un contratto, non c'è neanche una comunicazione al centro per l'impiego come chiedeva l'ascoltatore. In sostanza, in sintesi, come funziona? Il committente, quindi, decide di acquistare questi buoni, e le modalità sono molteplici, perché può essere dopo le indichiamo, sì, c'è quello magari cartaceo, c'è la procedura online, la spieghiamo dopo, però ecco, in questo infatti, quindi al di là della modalità che appunto può essere diversificata, cosa bisogna fare? La cosa importante, quindi l'adempimento più importante, è la denuncia preventiva di attivazione dei buoni. Quindi non basta il semplice acquisto, ma bisogna attivarli. Come si attivano? Si attivano accedendo ad esempio al sito dell'INPS o chiamando il contact center, quindi si chiama il numero verde oppure si va online e si fa questa denuncia. Questa, collegandomi alla domanda dell'ascoltatore, diventa fondamentale in caso di controllo ispettivo, perché è con questa denuncia che si evidenzia che il buono è stato acquistato, ma anche correttamente denunciato. Ecco, ma non è una denuncia generica, la denuncia deve contenere l'anagrafica di ogni prestatore di lavoro, mi pare. Sì, la denuncia deve contenere l'indicazione del codice fiscale del prestatore di lavoro, quindi si comunica in sostanza che che a quel determinato prestatore inizia questa prestazione di carattere occasionale accessorio e che dura a questo punto, in base alle ultime indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, non più di 30 giorni entro i quali devono essere consumati questi buoni dalla data di acquisto. Ecco, mi sono ripresa anche un po' di modulistica che ho stampato dall'INPS questa mattina proprio per capire quali sono tutte queste comunicazioni preventive che il datore di lavoro deve dare al fine di poter remunerare il prestatore dell'opera, naturalmente attraverso il voucher. Ci deve essere anche un dettaglio sul tipo di prestazione fornita, rotta porta? Ma sì, nella procedura web dell'INPS c'è un menu dove è richiesto il tipo di prestazione. Immagino, questo parere mio personale, che sia ancora un retaggio della vecchia impostazione, perché effettivamente il sistema informatico, infatti l'INPS non è ancora uscita con dei chiarimenti ufficiali, e tra l'altro il discorso che si faceva prima in merito proprio al buono che deve essere datato, che deve essere numerato, ecco, non è ancora il formato del buono non è ancora stato adeguato agli standard della riforma del lavoro, quindi necessariamente dovranno intervenire ancora magari dei tasselli a chiarire queste particolarità. Certo, Francesca Barbieri, non so se hai mai fatto anche questo tipo di monitoraggio. I datori di lavoro che tipo di procedura utilizzano? Fanno tutto online o preferiscono recarsi presso le sedi INPS per acquistare il voucher, per ritirare i voucher poi da utilizzare appunto per i propri lavoratori? Guarda, la maggior parte dei voucher è cartaceo, infatti dall'avvio fino ad oggi 46 milioni di voucher sono stati acquistati attraverso i canali tradizionali, diciamo. Però i voucher telematici stanno aumentando, negli ultimi mesi sono aumentati del 64%. Che formato ha il voucher telematico, tra l'altro, no, per capire, non è anche lì un documento di carta? Il formato è tipo un assegno, se non sbaglio, quindi sì, no, dicevo il cartaceo, cioè che differenza c'è tra il cartaceo, che comunque è proprio un voucher che materialmente viene dato al prestatore dell'opera. Non so, ma la procedura è telematica, se non sbaglio, per cui poi alla fine il prestatore un documento glielo dà. Ovvio, certo, il prestatore poi deve a sua volta incassarlo per ottenere appunto sia lo stipendio, tra virgolette, sia anche l'accredito dei contributi. Ecco, Alessandro Rottaporta, c'è qualche carta di pagamento strana che circola in tutto questo meccanismo? Sì, appunto precisando quello che stava dicendo la dottoressa Barbieri, la procedura telematica prevede il caricamento della prestazione da parte del committente, che abbina poi questi voucher al singolo prestatore a cui li corrisponde. Poi questa procedura prevede un invio automatico di una tessera, come fosse una carta di credito, direttamente all'indirizzo che il committente segnala del prestatore. Con questa carta il prestatore si reca agli uffici postali e, in base all'accredito che il committente gli ha fatto, riscuote incassa materialmente l'importo che è stato fissato. Preciserei solo, perché è molto importante, due cose. Con questi tetti diciamo numerici, quindi economici, fissati dalla riforma, il committente ha un onere in più, cioè quello di andare a richiedere al prestatore se ha già reso sotto questa forma eventuali prestazioni per altri committenti, perché il limite, ricordiamolo, i 5.000 euro sono in capo al singolo, e sono in capo al singolo prestatore, cioè ciascuna persona non può incassare più di 5.000 euro nell'arco dell'anno attraverso queste forme, che si riducono a 2.000 in capo al committente, qualora il committente sia un imprenditore. Quindi è bene che i committenti si ricordino anche di chiedere se il lavoratore ha già prestato lavoro occasionale accessorio. Ecco, però un'altra cosa importante per specificare che ci sono anche delle situazioni, come dire, di convivenza, il voucher per esempio può convivere anche con il sussidio che può percepire appunto un lavoratore momentaneamente disoccupato, diciamo così. Sì, infatti è stato esteso anche per il 2013 la possibilità da parte dei percettori di sussidi, quindi cassa integrazione piuttosto che indennità di disoccupazione, oggi ASPI, quindi la nuova indennità, i percettori possono fino a un limite massimo di 3.000 euro prestare attività attraverso i voucher. Ricordiamo che questi importi, quindi 5.000, i 3.000 nei caso dei percettori di sussidio o i 2.000 in capo ai committenti e imprenditori commerciali, sono sempre importi netti, quindi che possono materialmente percepire i lavoratori. Andiamo subito alle altre domande degli ascoltatori, perché sono tante, sono tutte molto interessanti. Danilo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Avevo due domande, probabilmente una ho già sentito la risposta mentre sentivo l'intervento. Ottimo. Perché non so, da quello che ho capito dovranno uscire diciamo fisicamente, graficamente, dei voucher nuovi dove sarà possibile indicare orari, data, almeno questo è quello che ho capito. Poi eventualmente se può chiedere conferma. Sì, certo, ci facciamo precisare da Rotaporto. Ok. Sì. E l'altra domanda era collegata a questa scadenza dei 30 giorni, però volevo essere un attimino più dettagliato, nel senso, ma 30 giorni da quando? Cioè, io, esempio, se io stamattina sono andato in posta, ho pagato un bollettino, bene, per acquisto voucher, io sono, diciamo, un datore di lavoro, questi 30 giorni decorrono da oggi, cioè entro 30 giorni da oggi devono essere consegnati, devono essere incassati. O è il prestatore che nel momento in cui ce l'ha in mano a sua volta ha 30 giorni per riscuoterli. Esatto, cioè, oppure non lo so, sono 30 giorni a partire da quando ritiro i voucher. Cioè, io stamattina ho pagato il bollettino, ma i voucher in mano li avrò, se andrà bene, tra 2 o 3 giorni, magari anche tra una settimana. Mi sembrano delle questioni di assoluta rilevanza. Danilo, la ringrazio. Rotaporta, visto che è stato il suo tema sulle Sole di ieri. Ci vorrebbe la sera di cristallo per dare la risposta, diciamo, non ce esatta. L'abbia. No, a parte gli scherzi, effettivamente la circolare, almeno proprio la lettera della circolare, parla di utilizzo entro 30 giorni decorrenti dall'acquisto. Allora, la circolare intanto la indico, perché qualche volta gli ascoltatori si lamentano che non diamo i riferimenti, la 4 del 2013, esatto. Del Ministero del Lavoro. Sì, del Ministero del Lavoro. Adesso effettivamente, proprio perché le modalità, dicevamo prima, sono diverse, le modalità di acquisto, andrebbe effettivamente chiarito cioè, cosa rappresenta questo momento temporale. Io immagino che debba per forza coincidere da quando, nel caso ad esempio dei buoni cartacei, il committente ha effettivamente disponibilità di questi buoni, quindi se si reca presso la sede IMSS, il committente è logico che fin tanto che non li ritira non debbano decorrere questi 30 certo, giorni. Certo, immagino. No, anche perché ammettendo che un datore di lavoro li acquisti oggi, ma li intende utilizzare quando, per esempio, parte la stagione della raccolta dei pomodori, che non è quello, adesso. Può farlo con grande anticipo o no? Ah no, quindi deve farlo proprio a ridosso dell'inizio? Questo non è possibile, perché appunto se devono essere utilizzati entro 30 giorni dall'acquisto, non possono, diciamo, essere tenuti in un cassetto e poi utilizzati quando si vuole, anche perché, almeno dal passaggio della circolare, sembra che scontato che questa, diciamo, decorrenza dei 30 giorni sia comunque da correlare a quella comunicazione preventiva di cui parlavamo prima, quindi è tutto strettamente collegato con l'adempimento. Insomma, l'idea è utilizziamoli il prima possibile, riscuotiamoli il prima possibile, per non si incorre in qualche sanzione qualora la scadenza dei 30 giorni, anche se non capiamo da quando parte esattamente, non viene rispettata, Rotaporta? Beh, un utilizzo, diciamo, distorto, quindi nel rispetto di queste regole tracciate dalla circolare, può portare alle sanzioni che vengono applicate in presenza di lavoro sommerso. Quindi un lavoratore che sia retribuito con i voucher ma al di fuori di queste regole è considerato dagli ispettori un lavoratore in nero. Certo. Quindi sono molto pesanti. Che va regolarizzato, esatto, immediatamente in altro modo. Francesca Barbieri, so che dobbiamo salutarti, adesso c'è un'ultima raccomandazione che vuoi darci su questo argomento, qualcosa che ci siamo dimenticati di dire, che dal punto di vista magari del tuo osservatorio vale la pena enfatizzare? No, beh, è importante adesso aggiornarsi con le nuove regole, proprio quello che diceva appunto Alessandro Rotaporta, questo nodo della scadenza. Io ho sentito anche delle aziende che mi dicevano che loro utilizzano i voucher per le manifestazioni fieristiche ed erano abituate in passato ad acquistarne grossi quantitativi da spendere poi nell'arco di 2, 3, 4 mesi. Adesso questo non sarà più possibile, mm-hmm, perché appunto c'è questa scadenza, per cui bisogna stare attenti anche al numero di voucher che vengono acquistati. Certo, grazie. Precario il mondo, precario il mondo, flessibile la terra che sta pestando, atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando. E vabbè, riprendiamo con Daniele Silvestri adesso. Qua da conduttrice radiofonica siamo passati a fare i DJ, Alessandro Rottaporta stamattina, ma insomma, a parte gli scherzi, ritorniamo invece a parlare di questioni estremamente serie. Prima di continuare a spiegarvi come funziona il voucher lavoro, vi ricordo che domani c'è l'appuntamento tradizionale con Telefisco, il convegno annuale dell'Esperto Risponde, il Sole 24 Ore. Siamo alla 22esima edizione, passeremo anche domani al Setaccio con questo grande appuntamento. Tutte le novità fiscali del 2013 sono tantissime. La prima novità per questa manifestazione riguarda il record di sedi, 103 tra quelle collegate e quelle principali. Noi faremo una puntata speciale di Salva Danaio, scegliendo uno dei tanti temi che nel corso del convegno verranno affrontati. Con Antonio Iorio parleremo di un tema che ci sta molto a cuore, che non trova quasi mai una soluzione pacifica per chi ci si imbatte: il contenzioso con il fisco. L'evento si può seguire da casa, dal proprio personal computer, è online in streaming pay per view sul sito del Sole 24 Ore, per cui potete andare a trovare tutte le informazioni per seguire l'evento dal sito del Sole 24 Ore. Alessandro Rottaporta, le altre domande appunto degli ascoltatori, c'è chi ci scrive. Intanto accontentiamo la nostra Sabrina del nostro centralino, che ci chiede: esercizio pubblico, bar, quindi somministrazione per il sabato e la domenica, si può prendere un collaboratore che faccia il turno saltuariamente, sia sempre la stessa persona utilizzando i voucher? Quindi probabilmente questo rapporto di lavoro potrebbe durare 6 mesi, ma lui verrebbe utilizzato solo nel fine settimana. Forse il voucher non è la migliore soluzione. Ma diciamo che con le nuove regole, se il voucher rientra in quei limiti che abbiamo citato prima, il Ministero non ha fatto delle preclusioni. È logico che nel momento in cui questo tipo di rapporto si configuri come, anche se limitato nel tempo, ma comunque continuativo, e quindi al pari di un rapporto che potrebbe essere inquadrato ad esempio con un part time o con un lavoro a chiamata ma di carattere subordinato, allora il discorso comunque cambia. Qui si parla di comunque prestazioni di carattere meramente occasionale, quindi va bene il rispetto dei limiti reddituali, però poi anche la configurazione del rapporto nel voucher non è un rapporto di lavoro subordinato, mm-hmm, quindi sono due cose ben distinte. 800 24 00 24, per continuare a prenotare i vostri interventi, ci sono anche tanti messaggi. Alberto ci scrive: ho una babysitter che lavorerebbe per me 2 ore al giorno, ma continuativamente, posso usare il voucher? Rivalgono le stesse considerazioni fatte un attimo fa, immagino. Sì, e poi soprattutto bisogna andare a calcolare che nell'arco dell'anno, probabilmente magari in questo caso, è anche possibile che si sforino i 5.000 euro, quindi non si starebbe comunque all'interno di questo perimetro che consente quell'utilizzo. Senta, se per qualche ragione al mondo non si riscuote il voucher, questo scade, non esiste nessuna possibilità per il prestatore che è stato remunerato con questa forma di poterlo riscuotere in un altro momento, ammettendo che sia sorto, non lo so, un problema di salute, una persona sta in ospedale, questo documento rimane là e non viene appunto utilizzato, che si fa? Ma in questi casi mi sembra che in passato, adesso a memoria, c'era la possibilità, sì, ho visto forse, qualche cosa. Forse rivolgendosi direttamente alla sede IMSS probabilmente è possibile recuperarlo. Però deve essere insomma probabilmente dimostrata, sì, la motivazione per la causa di forza maggiore. La stessa cosa vale ad esempio in caso di rimborso, quindi il committente che magari ne compri in maniera superiore rispetto poi a quelli che servono nell'effettivo utilizzo, può recarsi dove li ha acquistati, quindi presso la sede IMSS, o se li ha acquistati presso le poste, alle poste, e via dicendo, per richiedere il rimborso del, dei buoni. Allora, tra l'altro vedo che ancora non siamo stati chiari, forse nel corso della trasmissione, probabilmente proprio precisi su questo aspetto non ci siamo arrivati. Allora, il datore di lavoro mi paga con il voucher, questo è un piccolo stipendio a tutti gli effetti, rotaporta, no? Quindi posso andare a riscuoterlo in posta, come si fa? Mi danno il contante in posta? Qual è appunto proprio, come dire, l'evoluzione concreta di questo percorso, la finalizzazione del voucher? Allora, il voucher va riscosso sostanzialmente dove il datore di lavoro l'ha acquistato, a meno che non si tratti dei voucher cartacei che il datore di lavoro ha acquistato presso l'INPS, che quelli vanno riscossi all'ufficio postale. E fisicamente la posta darà dei soldi in contanti, quindi consegnerà dei contanti. Se ad esempio invece sono stati acquistati presso la rete dei tabaccai, sarà il tabaccaio che paga direttamente i soldi al lavoratore, quindi si porta la tessera, ad esempio citavamo prima nel caso dell'acquisto telematico, si va in posta con la tessera e al prestatore vengono dati i contanti, quindi con il titolo, che sia la tessera, che sia il buono cartaceo, si va nella rete dove è stato acquistato e si va direttamente a riscuotere, quindi principalmente le poste, perché anche quelli acquistati cartacei presso l'INPS si riscuotono le poste, e poi a seconda di dove sono stati comprati. Piera da Brescia, buongiorno, rapidissima, così speriamo di accontentare un po' di ascoltatori. Buongiorno, innanzitutto. Buongiorno. In parte avete già risposto. Volevo sapere se i voucher sono tutti da 10 euro. Poi, sì. Per delle pulizie in condominio, questi voucher rispondono anche in questi 10 euro, metta ipotesi, rispondono anche sull'assicurazione delle persone che prestano servizio? Grazie Piera, rotaporta. Sì, allora i voucher sono, diciamo, singolo buono ha un valore di 10 euro che però corrisponde a un netto di 7,50 per il lavoratore, proprio perché in quei 2,50 euro ci sono le commissioni per l'INPS, e poi c'è la parte contributiva. Sia INPS, e c'è anche la copertura infortunistica INAI, quindi in caso di infortunio, l'esempio che faceva l'ascoltatrice, quindi la lavoratrice è coperta in caso di appunto circostanza sfortunata. Tra l'altro sul punto è bene ricordare che il Ministero in passato ha precisato che comunque anche con riferimento ai voucher devono essere rispettati gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. Certo. Quindi questo è un capitolo importante. Devo dire che ci sono molte persone che ci stanno scrivendo proprio anche per l'utilizzo del voucher per remunerare per esempio delle collaboratrici domestiche, o anche appunto proprio per utilizzare dei lavoratori per le pulizie del condominio, rotaporta. L'utilizzo con la riforma ormai è libero, quindi non ci sono più dei settori di attività specifici dove, come prima, che limitavano l'utilizzo dei voucher. L'importante è rimanere nell'ambito dei 5.000 con riferimento al singolo prestatore o con riferimento al committente, che sia imprenditore commerciale o professionista, quindi che esercita un'attività economica, rimanere nell'ambito del massimo dei 2.000. Questi sono i limiti, poi qualsiasi attività è si può adattare ai voucher, che ricordiamo in capo al lavoratore non costituiscono reddito, quindi non hanno imposizione fiscale, quindi 7,50 orari sono importante. Esatto, i 7,50 orari sono netti. Quindi sono netti. Esatto. Allora, chi scegliamo adesso? Rapidissimo, Luca da Treviso, buongiorno. Poi Silvio da Roma, credo che abbia una domanda un po' più articolata, non so se ce la facciamo, magari Silvio le facciamo scrivere una mail, ci facciamo aiutare da Alessandro Rotaporta per questo. Vediamo se ce la facciamo. Luca! Sì, buongiorno, sarò rapidissimo. Grazie. Imprenditore, volevo sapere un'informazione di questo tipo. Mia moglie, che è senza lavoro, io ho un'attività stagionale, ci occupiamo di volantinaggio, volevo sapere se potevo assumerla come stagionale con questo sistema. Grazie Luca. C'è una preclusione tra parenti, rotaporta? No, la legge non indica preclusioni. Ricordiamo che non è un'assunzione, è quello importante, non è un rapporto di lavoro, quindi si tratta sempre di attività occasionali. Allora, Silvio da Roma, ma non ce la faremo mai. Silvio è un imprenditore a diversi negozi, quale formula migliore per regolarizzare ragazzi studenti che lo aiutano il fine settimana? Il voucher potrebbe essere utile. Silvio, mi scusi se non la faccio intervenire, ma stiamo chiudendo, rotaporta. Ma con quello che abbiamo detto finora se questa il limite economico, esatto, teniamo, partiamo da lì. Il limite economico e poi vabbè, con le considerazioni che abbiamo fatto in precedenza. Certo, quindi Silvio, magari se vuole una consulenza un po' più dettagliata ci scriva e Alessandro ci aiuterà come sempre. Io lo ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Francesca Barbieri, Alessandro Rottaporta, Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Gianmarco Ferronato in assistenza tecnica. Oggi ho salutato tutti. Domani appunto ritorniamo a Salvadanaio, come vi anticipavo anche noi abbiamo un momento speciale dedicato a Telefisco. A tutti buona giornata.